benvenuti ad un nuovo appuntamento con Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Indie Media Calabria. Indie Radio, ve lo ricordo, la potete ascoltare solo su Radio Transizione di Fase, la web radio indipendente, ogni venerdì alle ore 21 ed in replica sabato alle ore 12. In questo appuntamento ci occuperemo soprattutto della giornata del 15 ottobre a Roma, giornata della mobilitazione internazionale dell'indignazione. Ci occuperemo non tanto di ricostruire gli avvenimenti quanto di comprendere le cause e i motivi di questa rabbia e di questa indignazione. Parleremo poi della Calabria in relazione al 15 ottobre e quindi ricorderemo come nella mattina del 17 ottobre numerosi compagni di Cosenza e provincia sono stati fatti oggetto di perquisizione domiciliare. Le forze dell'ordine cercavano le armi di Roma, ma non hanno trovato nulla di tutto questo. Invece a Lamezia, il 15 ottobre, Casa Pound cercava di far propria la manifestazione degli indignati, indicendo essa stessa una manifestazione a Lamezia. Ma grazie al pronto intervento dei compagni lametini che hanno denunciato l'accaduto, Casa Pound ha pensato bene di rinviare questa manifestazione a causa del maltempo. In questo numero ci occuperemo ancora una volta però di quella che è stata la visita del Papa alla Lamezia Terme. Infatti su Indie Media Calabria, su Newswire, è stato pubblicato un interessante articolo che pone delle domande molto chiare. Cioè si fa conto di quelle che sono state le spese affrontate da comune, provincia e regione, si fanno dei numeri, si parla del perché sono state fatte delle scelte piuttosto che altre. Continuate dunque ad ascoltare Transizione di Fase, continuate a seguire Indie Media. Buon ascolto. Yeah. Dopo il 15 ottobre, su tutta la rete, sui giornali, sulle televisioni, si inseguono le varie interpretazioni, soprattutto si mostrano le scene di violenza e si dà la caccia ai pericolosi black bloc, se ne forniscono identikit, si cerca di fare addirittura una analisi psicologica e si parla di black bloc che si sarebbero organizzati per mesi e mesi tra le valli della Val di Susa e in Grecia. Quindi si ricostruiscono in maniera molto fantasiosa gli avvenimenti del 15. Ebbene, diciamo che questa distinzione che si cerca da più anni e che è stata anche fonte di spaccatura all'interno del movimento, cioè la spaccatura che vede buoni, manifestanti buoni contrapposti a manifestanti cattivi, non è certamente interessante se non pericolosa. Infatti ciò che è interessante invece è sottolineare e analizzare è soprattutto quella che è stata la rabbia che ha accomunato tutte le persone che erano in piazza a Roma il 15, così come in tante altre città del mondo. La piazza di Roma certamente è stata una delle piazze più grandi, se non la più grande probabilmente, e c'erano certamente diverse anime, diverse volontà, diversi modi di interagire, di interpretare la piazza, ma come dicevamo l'indignazione e la rabbia che ha portato moltissime persone in quella piazza era comune. Essere indignati oggi significa essere persone che non vedono innanzi a loro un futuro, e questo è stato un motivo che ha spinto magari alcune persone a dare un'interpretazione diversa. Certamente non staremo qui a parlare di persone buone, di persone cattive, di manifestanti bravi e cattivi, né tantomeno ci interessa fare distinzioni, né tantomeno ci interessa parlare di violenza o di pacifismo. Riot e pacifismo sono dei termini che evitiamo proprio per non incorrere in questa distinzione. Tuttavia, come dicevamo, è interessante comprendere i motivi della rabbia, una rabbia che c'è e che diventa sempre più grande e diventa sempre più imponente. Tuttavia, bisogna capire come riuscire ad andare oltre il 15, come riuscire a esprimere in maniera anche diversa quella che è la voglia di cambiamento, che deve certamente partire da noi, che non deve essere senza dubbio delegata a chi che sia, ma deve vedere la partecipazione attiva di tutte le persone che si sentono coinvolte in questo moto di cambiamento. di sicuro molti hanno parlato di spartiacque per quanto riguarda il 15 ottobre. Forse le cose sono meno catastrofiche di quel che si pensa. Certamente le violenze che subiamo ogni giorno, le violenze che subiscono gli immigrati, le violenze che subisce un precario, le violenze che subisce un giovane che non vede innanzi a sé alcun futuro, sono veramente enormi. Senza dubbio anche a Roma le macchine bruciavano, senza dubbio anche a Roma venivano difese le piazze, veniva difesa la piazza, ma c'è stata anche una gestione veramente particolare da parte delle forze dell'ordine che sono intervenute in massa soprattutto all'interno della piazza e non prima, e hanno diviso il corteo. Chissà che cosa sarebbe successo se invece la piazza si fosse riempita per intero. Magari sarebbe stato molto interessante riuscire ad avere cognizione di una piazza interamente piena di indignati, ma speriamo non manchi occasione per vedere in tante piazze, e non solo a Roma, in tante piazze, grandi manifestazioni di indignazione e grandi momenti di partecipazione e di crescita della collettività. Comunque questa analisi, come dicevamo, sta appassionando molte testate giornalistiche, ma soprattutto anche molti siti antagonisti. Ricordiamo per esempio che Femminismo a Sud sta effettuando una raccolta interessante, vi sono numerosi articoli di approfondimento che cercano dunque di ricostruire collettivamente quella giornata, quella piazza. Ma quello che è interessante e notare è come anche questi siti vengono oggi minacciati non solo dalle leggi bavaglio, ma da questa nuova ondata repressiva. Infatti dopo il 15 ottobre si sono verificate purtroppo quelle che sono le classiche azioni di repressione, che certamente non devono spaventare, forse sono anche atti dovuti, ma è preoccupante soprattutto che si parli di nuove leggi che non vanno a colpire chi ha effettuato un crimine, ma sono leggi preventive, leggi cioè che colpiranno in maniera indiscriminata, quindi non soltanto gli indignati, non soltanto quelli che una volta venivano chiamati no global, non soltanto dunque le persone di movimento, ma tutti gli italiani, tutte le persone cioè che abitano in Italia, pur non avendone magari la cittadinanza, ma tutte queste leggi preventive andranno a colpire le persone che si presume potranno effettuare delle cose, delle azioni illecite. Quindi avere un paio di biglie in tasca e trovandosi nelle prossimità di una manifestazione, per esempio, potrebbe essere una scusa valida per essere arrestati, perché si presume che con quelle biglie noi potremmo recarci all'interno della manifestazione ed effettuare dei tafferugli. Questo che cosa significa? Significa che noi non avremo più libertà e saremo giudicati non in base alle azioni già fatte nel passato, ma in base a quello che potremmo eventualmente compiere nel futuro. Quindi si fa un salto indietro nel passato, un po' come è accaduto negli anni 70. Non che ci interessi poi fare un paragone con gli anni 70, poiché quello che è accaduto in quei periodi è molto lontano da ciò che accade oggi. E poi non siamo nemmeno quei nostalgici che guardano agli anni 70 come a quel periodo d'oro, visto che appunto quel movimento, a nostro parere, sì, è stato fallimentare alla fine. Infatti dopo gli anni 70, non a caso, c'è stato il regime, diciamo così, di Craxi e dei suoi amichetti, dai quali poi è scaturito un personaggio come Silvio Berlusconi. Ad ogni modo, queste leggi, se poste in atto insieme alla legge Bavaglio, non faranno altro che distruggere lentamente tutte le nostre libertà. Non saremo più persone libere, ma cittadini che avranno il terrore di uscire in strada se c'è una manifestazione in prossimità. Saremo cittadini non più liberi di utilizzare la rete, che avranno a loro disposizione solo ed esclusivamente informazione di regime, non solo come accade oggi soltanto sui giornali e sul mainstream, ma anche in rete. Quindi potremmo tranquillamente emigrare in Cina, dove forse si conserva qualche maggiore libertà. E lo diciamo questo in senso ironico, ma a malincuore sicuramente. Non siamo comunque ammiratori del regime cinese, questo per essere chiari. Quindi questo è il futuro che ci aspetta: mancanza di libertà, e soprattutto nel momento in cui noi andremo a manifestare la nostra rabbia, la nostra indignazione, in qualsiasi forma essa sia, verremo probabilmente tacciati di essere dei pericolosi criminali, delle persone pericolosissime che potranno compiere qualche atto illegale, qualche atto violento. E forse veramente ci avvieremo verso una società che ricorda molto 1984, un romanzo che spero molti di voi avranno avuto la fortuna di leggere. Il Grande Fratello dunque continuerà ad osservarci, continuerà a far parte delle nostre vite sempre di più. Forse fra qualche anno alcuni termini come libertà verranno addirittura cancellati dal nostro dizionario. Ma questo spetta a noi riuscire a decidere delle nostre vite e dire boh, basta. parliamo di quello che è successo in Calabria per il 15 ottobre. Infatti molte realtà, molte persone, molti singoli sono, si sono recati dalla Calabria a Roma, numerosi sono stati infatti pullman organizzati per giungere in città in questa data, ma nel contempo a Lamezia Terme succedeva qualcosa di veramente incredibile e di paradossale. Gruppi neofascisti infatti chiamavano un'assemblea cercando quindi di camuffarsi per indignati e quindi facevano proprie delle istanze una manifestazione che è certamente lontanissima dal loro essere. Tuttavia questo becero tentativo di camuffarsi e di appropriarsi, come loro solito d'altra parte, di termini e di lotte che non sono proprio ai fascisti, è stato sgominato dalle forze locali antagoniste, quindi sono state denunciate, è stato denunciato dunque questo tentativo dagli antagonisti lametini e di conseguenza pare che la manifestazione ufficialmente sia stata rinviata a data da destinarsi a causa della pioggia, e speriamo che questa pioggia sui fascisti lametini continui ancora per lunghissimo tempo. Ma questo non basta, infatti dopo la manifestazione si sono anche avuti dei commenti che chiaramente noi non riferiremo, circa le interpretazioni date alla piazza da parte dunque dei fascisti lametini, dei fascisti calabresi in generale. Ebbene, queste persone dovrebbero ricordarsi che alcuni loro idoli negli anni 70 ad esempio, il sindaco di Roma, andavano a lanciare molotov in giro per il mondo, quindi non ci capiamo, non si comprende per quale motivo ora queste persone, che anche oggi continuano ad effettuare violenze su violenze a Lamezia, come a Catanzaro, come nel resto d'Italia, ora si stupiscano e facciano i bravi moralisti. Beh, almeno dichiarino anch'essi la loro natura violenta, ma quando magari le violenze arrivano da altre parti è molto più semplice fare gli indignati, appunto. Dunque, dopo il 15 però è successo anche altro in Calabria, lasciando stare dunque queste buffonate fasciste. Infatti dopo il 15 in tutta Italia si è scatenata la caccia alla strega. Vediamo che molti giornali, molti media si divertono a fare questi identikit del Black Bloc. Addirittura ci sono dei giornali, delle testate giornalistiche che invitano i loro lettori a spedire le fotografie fatte durante gli scontri per individuare dunque i violenti. Sembra quasi dunque di assistere a una raccolta punti, o come si faceva da tempo in memore, si fa la raccolta delle figurine, adesso si fa la raccolta delle fotografie dei Black Bloc. Beh, questa cosa è alquanto inquietante, soprattutto perché è promossa da organi di informazione che probabilmente non conoscono assolutamente la deontologia professionale. Ebbene, in tutta Italia scatta questa maxi operazione all'alba del 17 ottobre, che vede perquisizioni in numerose abitazioni, e anche Cosenza risponde all'appello. Cosenza che è stata teatro di numerosi teoremi, primo fra tutti il teorema principe del 2001, ovvero la questione del Sud ribelle. Ebbene, in questa giornata del 17 ottobre numerosi compagni di Cosenza e provincia hanno visto le loro case salutate dalla presenza delle forze dell'ordine, e si è trattato per lo più di controlli effettuati a persone che già da tempo magari non frequentano più in maniera, diciamo così, militante ambienti di sinistra, che certamente conservano nel cuore le loro idee, ma magari non si spendono più moltissimo per questo, però continuano a ricevere le visite delle forze dell'ordine. Probabilmente a Cosenza, se si è dichiarati antifascisti, se si è dichiaratamente di sinistra diciamo così radicale, e se si hanno alle spalle alcune denunce, allora magari è più bello andare a visitare le case da parte appunto delle forze dell'ordine. Tuttavia tutte queste perquisizioni hanno portato a quello che dovevano, ovvero a un nulla di fatto. Nessuna delle persone è stata rinvenuta con delle armi pericolose, cioè quelle armi che appunto si cercavano. Tutte le perquisizioni dunque sono state negative, perché le armi che secondo le forze dell'ordine sono state usate a Roma non erano presenti appunto nelle case di chi magari nemmeno a Roma c'è stato e ne aveva intenzione di andare. Quindi questo ci fa capire un po' come probabilmente si agisce in tutta Italia. Bisogna fare queste cose, bisogna fare dunque una perquisizione, e tanto vale prendere i nomi dei soliti noti. Andiamo dunque da queste persone e facciamo la nostra brava perquisizione. E ancora una volta, in tempi di crisi, vediamo come i soldi italiani vengono spesi inutilmente, vengono gettati al vento. Chiaramente da parte di tutto il movimento cosentino è stata dichiarata massima solidarietà a tutte le persone che hanno subito la violazione dei loro domicili. Viaggiare nel tempo, per trovare la destinazione, in mezzo a troppi uomini con scarsità di dei, o a un eccesso di Dio con scarsità di uomini, succede sempre così. E questo è assolutamente vero. E questo è assolutamente vero. E questo è assolutamente vero. Assolutamente vero. E questo è assolutamente vero. Indiradio continua ad occuparsi della visita del Papa alla Lamezia Terme. Infatti sul Newsguard di Media Calabria è stato pubblicato un interessante articolo che cita numerosi dati. Numerosi, dunque, apprendiamo, sono i denari investiti, diciamo così, per questa visita. Infatti si parla soprattutto dell'area ex SIR di questo terreno che con delle delibere del comune di Lamezia Terme, più precisamente la numero 467 del 3 agosto 2011 e la 511 del 28 settembre 2011, il comune di Lamezia Terme dona alla curia lametina questo enorme terreno, un terreno dunque che è utilizzato in maniera diversa rispetto a quelli che erano i parametri iniziali. Infatti è stata praticamente modificata questa area, che era un'area destinata a costruire edifici pubblici e invece ora è diventata un'area per servizi religiosi. Infatti la zona ZTOF1 sottrazione FP è diventata una zona ZTOF2 sottrazione FR e quindi verranno costruiti in questo terreno dei servizi religiosi. La curia quindi andrà a costruire su questo terreno tutta una serie di edifici religiosi, una grande chiesa, delle aree destinate al culto, ma addirittura verranno costruite delle scuole private, delle scuole cattoliche, delle quali si farebbe tranquillamente a meno. Tuttavia, mentre a Lamezia molti insegnanti, molti studenti sono costretti a fare scuola in degli edifici totalmente inidonei, invece si pensa bene di costruire le chiese e le scuole per i ricchi signorini che andranno in queste magiche scuole private dove si insegna a dire il Padre Nostro, l'Ave Maria, ma dove magari una critica costruttiva all'esistente mancherà totalmente se non viene addirittura bandita. Dunque, ritornando alle spese e ai soldi investiti in questo straordinario momento di raccoglimento religioso, vediamo come in realtà questo terreno vale moltissimo. Infatti si tratta di 8.487 metri quadri che al metro quadro valgono 160 euro. E questo che cosa significa? Significa che è stato donato 1.300.000 euro alla curia di Lamezia. In questo interessante articolo dunque vengono fatte una serie di richieste, si richiede cioè il ritiro della delibera di cessazione del terreno, che ci auguriamo possa accadere, anche se la vediamo un po' difficile sinceramente. Poi si chiede anche il ritiro di tutte quelle delibere legate all'evento papale per cui non si è ancora seguita una determina di pagamento, e anche qui mi sa che è un po' difficile che ciò avvenga. E infine, e questa è la cosa più plausibile, più interessante e giusta da chiedere, diciamo più praticabile, la rendicontazione dettagliata di spese extra e fuori delibera e non ancora dichiarate, per esempio si fa riferimento agli straordinari della Polizia Municipale o ancora agli acquisti degli arredi. E infine si chiedono anche chiarimenti per quanto riguarda le procedure relative alle gare per affidare tutti i lavori legati alle visite papali, sia interni che esterni, e qui sarebbe veramente molto interessante, come sapete, in questo evento che è stato seguito dalla RAI da milioni di fedeli e dove in realtà in loco non c'era moltissima gente, possiamo dirlo, è stato tutto organizzato come se si trattasse di un grande evento rock. Quindi la rockstar Papa Ratzinger si è recata alla Lamezia con tanto di maxi schermi, mega palchi, eccetera, eccetera. Ebbene, si chiede di avere chiarezza rispetto alla modalità di affidamento di tutti questi lavori. E ancora si chiede alla curia invece la pubblicazione di un bilancio delle spese effettuate, poiché sono stati donati alla curia 750.000 euro da provincia, regione e comune. Quindi la curia, magari anche online, dice il comunicato, potrebbe fornire i propri dati e il proprio bilancio rispetto a questa spesa ingente che è stata affrontata. Ad ogni modo, vediamo come ancora una volta, per ovviare per porre in atto degli eventi assolutamente inutili, ora il Papa, qualche tempo fa Miss Italia a Reggio Calabria, vengono spesi dei soldi che chiaramente vengono sottratti a quelle che sono esigenze reali e concrete. E mentre molte persone in difficoltà si recano agli sportelli della Caritas per ottenere un pacco di viveri, mentre tutto ciò accade alla Lamezia come in tutta la Calabria, come in tutta Italia in realtà, si spendono e si spandono denari pubblici per garantirsi l'amicizia e la vicinanza della Chiesa. Verranno costruite dunque una chiesa, delle scuole private e al pubblico, al comune, viene garantita soltanto la realizzazione di una piazza. Veramente molto interessante questo scambio, una piazza in cambio di una chiesa e di scuole private, e intanto le scuole pubbliche languono, ma probabilmente si va verso quella che è una continua discesa verso gli inferi per quanto riguarda le scuole pubbliche, per quanto riguarda il medesimo concetto di pubblicità degli spazi. È preferibile costruire una chiesa piuttosto che creare centri di aggregazione, centri di formazione relativi non solo a chi è cattolico, cioè a chi segue una religione, ma liberi per tutti. Ebbene, questo concetto in Calabria, e non solo chiaramente alla Lamezia Terme, viene a mancare. E la cosa strana che ci sorprende veramente, ma fino a un certo punto forse, è che a effettuare questi doni sia stata una giunta guidata non dagli amici della destra, diciamo così, o del centro-destra, ma da una giunta guidata da un partito che si dichiara di sinistra. Ebbene, questo partito non solo continua a effettuare delle uscite abbastanza lunghe con dei manifesti, ora ad Ancona, ora a Roma, ma in Calabria non si limita ai manifesti, bensì regala alla Chiesa spazi pubblici. Evviva la pubblicità, evviva lo Stato laico, evviva le scuole pubbliche. Non abbiamo più bisogno di chiese, chi vuole pregare può farlo anche scantinati, non vediamo quale sia il problema. Dire una preghiera poi la si può fare anche in casa, chi vuole può farlo a proprie spese, ma non a spese del pubblico. Il pubblico deve essere tale e deve essere garantito a tutti. Speriamo che questa terra ritorni alla cittadinanza e non ai cattolici. E anche per questa sera siamo giunti al termine del nostro appuntamento settimanale. Io vi ricordo ancora che avete ascoltato Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Indie Media Calabria, e vi ricordo che siamo su transizione di fase e ci potete ascoltare ogni venerdì alle ore 21 e in replica sabato alle ore 12. Non ci resta dunque che salutarvi, continuate ad ascoltare i programmi di transizione di fase e continuate a seguire e soprattutto a partecipare ad Indie Media Calabria e a Indie Media Italia. Vi ricordo infatti che le notizie di cui abbiamo parlato sono proprio tratte da questi siti in particolare. Vi salutiamo, arrivederci, ciao! Affronto il bus ogni mattina, ma è un mezzo pubblico pure la ghigliottina. Io per pagarmi la marmitta catalitica mi son dovuto vendere tutta la macchina. Tanto sarà tutta corsia preferenziale per collegare ministeri, trattoriole, discoteche, osterie, boutique e birrerie. Onorevole che prende salto il primo, di secondo cosa c'è? Sopravvoliamo sul territorio urbano, sì. Sopravvoliamo su tutta la città. Sopravvoliamo sull'anziano, sopravvoliamo e vai col chi pisa. Cristina, cammina. Ci sono dolori che non sono controllati, conviene andare sempre in giro corazzati. E ora che pure Perigni si è sposato, non ci sta più chi ci bestemmia sul mercato. Sciogliamo le camere per un mondo migliore, sciogliamo le camere con i caschi blu. Sopravvoliamo sulla giunta di Milano, di chi? Sopravvoliamo, amore toccami le mani. Oh no. Sopravvoliamo sul discorso all'italiano, e tu mi ami veramente. La nostra storia non è molto interessante, se invece ti detesto e neanche tu mi ami, vieni a stare nella coalizione di domani. Ma in questa guerra che ci lascia tutti illesi, né vincitori né perdenti, solo offesi. È un grosso rischio procreare dei piccini, se me li tiri su un copino.